Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. So I'm told that there is an Italian saying, forgive my accent, patti chiari, amicizia lunga. Così ha detto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il presidente americano Obama oggi a Renzi, che era in visita diplomatica alla Casa Bianca, e l'avete sentito in questo italiano, naturalmente molto americano, di Obama, ha espresso così questa alleanza forte tra Italia e Stati Uniti, questo valore speciale delle relazioni appunto tra Italia e Stati Uniti, e ha aperto, ha fatto un'apertura di credito nei confronti di Renzi che probabilmente neanche Renzi si aspettava, diciamo così, ampia, anche sulle riforme, sul referendum, poi sentirete. Parleremo molto di questo questa sera, ma anche di altri temi, come sempre con Effetto Notte, per esempio come sta andando questa offensiva a Mosul, la roccaforte dell'ISIS in Iraq, contro per l'appunto il sedicente Stato Islamico. C'è dentro anche l'Italia, c'è una coalizione occidentale, oltre al stesso governo, oltre allo stesso esercito iracheno, ai Peshmerga, eccetera. Cercheremo di fare un po' di chiarezza in questa moltitudine di soggetti che sono presenti lì in questa offensiva più o meno definitiva a Mosul contro l'ISIS. Insomma, tanti temi, voi lo sapete, potete sempre interagire su questi temi con Effetto Notte attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, in qualsiasi momento, oppure il numero per gli sms e whatsapp, che è 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. Andiamo subito ai temi principali e alla giornata. La visita di Renzi alla Casa Bianca, il Presidente del Consiglio incassa il sostegno di Obama sulle riforme, il sì al referendum, dice Obama, aiuterà l'Italia. La manovra italiana sotto la lente di Bruxelles, il ministro Padoan risponde alle critiche e dice l'Italia è in regola, la manovra non è uno spot elettorale, fa bene alla crescita del Paese. Lavoro in calo dell'8,5% tra gennaio e agosto 2016, le assunzioni a tempo indeterminato rispetto allo stesso periodo 2015. L'osservatorio INPS sottolinea che sul dato pesa la fine del superbonus. Roma, incontro sui conti tra la sindaca Raggi e il governo, sindacati pronti allo sciopero per i salari. Iraq rallenta l'offensiva per riconquistare Mosul, l'ISIS resiste, tensione tra il governo di Baghdad e la Turchia. Caporalato, via libera definitivo della Camera al disegno di legge sul contrasto ai fenomeni del lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. La decisione dell'UNESCO su Gerusalemme è indivisibile patrimonio palestinese, durissime le proteste di Israele. Calcio, partita di Champions League per la Juventus in campo contro il Lione. Partiamo naturalmente quindi dalla visita diplomatica di Renzi alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha accolto insieme a Michelle Obama Renzi e la moglie Agnese Landini, ha detto che approva le riforme del presidente del Consiglio italiano, sia quelle politiche, ha detto sosteniamo il referendum, sia quelle economiche. Renzi ha detto ha creato un sistema economico sostenibile. Uno dei temi centrali degli incontri fra Barack Obama e Matteo Renzi ha riguardato l'economia, ha riguardato soprattutto la sfida per la crescita. Il messaggio di entrambi è che la crescita dovrà passare per un cambiamento dell'Europa, per un cambiamento delle regole che impediscono di perseguire politiche fiscali adeguate alle sfide del nostro tempo. Ecco, su questo Barack Obama in particolare è stato molto chiaro, ha dato il suo appoggio alle strategie di crescita attraverso investimenti infrastrutturali e politiche fiscali, perché ha detto la politica monetaria da sola, l'opera di Mario Draghi, non può bastare. È da molti anni che lo ripetiamo, noi abbiamo avuto un percorso di crescita virtuoso, ora tocca all'Europa che dovrà cambiare. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore a Washington. E poi ci collegheremo direttamente con Washington per farci raccontare tutta la giornata americana nei vari risvolti. A proposito degli Stati Uniti, la rivista Vogue scende per la prima volta nella sua storia in campagna elettorale. Guidata da Ann Wintour, Wintour appoggia Hillary Clinton. Sappiamo che Clinton, dice la Wintour, non è sempre stata una candidata perfetta, ma la sua intelligenza e la sua considerevole esperienza sono riflesse nelle sue politiche e nelle sue posizioni, che sono chiare e solide, afferma Vogue, sottolineando che le due parole che hanno speranza sono Madame President. In Italia invece i riflettori restano puntati sulla manovra economica, monta inoltre la polemica su Equitalia e Voluntary Disclosure Bis, ma il ministro Padoan rassicura. Non è uno spot elettorale, è qualcosa che fa bene alla crescita del paese. Difende la manovra, si dice ottimista e convinto del rispetto delle regole europee, definendo molto positivo il rapporto con la Commissione. Il ministro dell'Economia Padoan parla a Uno Mattina, poche ore dall'arrivo della bozza di bilancio sulle scrivanie di Bruxelles. Un documento che conferma la stima di una crescita dell'1% nel 2017, la scelta di alzare il deficit al 2,3 rispetto all'1,8 promesso e al 2 indicato nella nota di aggiornamento del DEF, con la richiesta di spese straordinarie per sisma e migranti. Numeri diversi da quelli concordati con l'Europa, che ora vaglierà le 70 pagine di carte e tabelle. L'esame sarà esigente, promette il commissario agli affari economici Moscovici. Secondo la tempistica europea, entro il 1 novembre la manovra potrebbe essere rispedita al mittente, ipotesi altamente improbabile. Intorno al 9 già le prime indicazioni, quando la Commissione diffonderà le previsioni economiche autunnali. Entro il 30 dello stesso mese il giudizio definitivo, con eventuale richiesta di correzioni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Le misure fiscali della legge di bilancio dividono il Partito Democratico. Sotto accusa la voluntary disclosure allargata anche al denaro contante occultato in Italia e la rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia. Misure che per alcuni si traducono in un condono per evasori fiscali, anche con il rischio di aiutare il riciclaggio. Fisco vampiro? Renzi evoca la destra, punzecchia Pierluigi Bersani. Per pagare meno bisogna pagare tutti. E invita il Presidente del Consiglio, in visita negli Stati Uniti, a chiedere oltreoceano come si fa. La rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia non convince neppure il presidente dell'INPS, Tito Boeri. La misura, dice, può avere un effetto negativo. È pericoloso dare un segnale di lassismo. Le agenzie di riscossione poi temono il crollo delle entrate a partire dal prossimo anno. Ma il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, difende le scelte del governo e assicura: nessun condono in vista, si paga il dovuto. Anche per il responsabile economico del PD, Filippo Taddei, non c'è condono, ma solo uno stop al fisco vessatorio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per quanto riguarda il mercato del lavoro, i dati dell'INPS diffusi oggi non sono positivi. Rallentano ancora le assunzioni nei primi 8 mesi del 2016, secondo l'INPS, sempre riferita ai soli datori di lavoro privati. Nel periodo gennaio-agosto 2016 sono risultate 3.782.000, con una riduzione di 351.000 unità rispetto al corrispondente periodo del 2015. Il calo riguarda principalmente i contratti a tempo indeterminato, 395.000, pari a 32,9% rispetto ai primi 8 mesi del 2015. La spiegazione, secondo l'INPS, è il forte incremento delle assunzioni a tempo indeterminato registrato nel 2015, anno in cui queste assunzioni potevano beneficiare dell'abbattimento integrale dei contributi previdenziali. Ma nello stesso periodo le cessazioni nel complesso risultano diminuite del 7,3%, la riduzione più consistente per i contratti a tempo indeterminato. Quindi il saldo tra assunzioni e cessazioni è positivo, pari a 703.000. Aumentano infine i contratti a tempo indeterminato, quelli di apprendistato con esonero contributivo biennale introdotto dalla legge di stabilità 2016, hanno creato 330.000 rapporti agevolati e sono stati venduti quasi 97 milioni di voucher. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E parliamo di caporalato. Via libera definitivo dell'Aula della Camera al disegno di legge sul contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, detto disegno di legge appunto caporalato. I voti a favore sono stati 336, nessun contrario, gli astenuti sono stati 25 tra Forza Italia e Lega. E adesso parliamo del referendum, forse domani la pronuncia del TAR del Lazio. Nei 5 Stelle intanto è sotto pressione Luigi Di Maio. Bisognerà ancora attendere per conoscere come si voterà il 4 dicembre al referendum costituzionale. Slitta domani la decisione del TAR sul ricorso proposto dal Movimento 5 Stelle e da Sinistra Italiana per contestare il quesito che sembra, a detta delle opposizioni, uno spot per il governo. Restano valide tutte le possibilità: ordinanza cautelare, remissione alla Corte Costituzionale, pubblicazione della sentenza, riunione dei ricorsi proposti sullo stesso tema. In questo caso ci potrebbe essere una maxi udienza la prossima settimana. E sul fronte 5 Stelle c'è attesa per la decisione del TAR, ma il movimento è anche alle prese con il caso delle spese di 100.000 euro di Luigi Di Maio per eventi sul territorio. Il vicepresidente della Camera replica: in 3 anni ho restituito 204.000 euro, è capitato che abbia pagato alberghi, biglietti aerei, treni per viaggi istituzionali senza farli rimborsare alla Camera. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ancora il tema di 5 Stelle. Oggi c'è stato il primo incontro tra la sindaca Raggi e il governo. C'è stato soprattutto il nodo del salario accessorio dei 24.000 dipendenti comunali capitolini. C'è stato soprattutto il nodo del salario accessorio dei 24.000 dipendenti comunali capitolini al centro del faccia a faccia a Palazzo Chigi fra il sindaco di Roma Raggi e il sottosegretario De Vincenti. La prima cittadina ha illustrato la soluzione studiata dal Campidoglio per continuare a pagare il salario accessorio, evitando di restituire i 340 milioni contestati dal Ministero dell'Economia perché erogati in maniera impropria negli anni scorsi. La soluzione proposta dal Comune è quella di effettuare il pagamento utilizzando un meccanismo che ci viene concesso visto che siamo riusciti a fare delle economie di gestione. Sul salario accessorio nel frattempo i sindacati si preparano alla mobilitazione e non escludono l'ipotesi di uno sciopero generale se i dipendenti comunali non riceveranno i premi di produttività previsti per il secondo semestre del 2015 che erano stati congelati dal commissario Tronca. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso spostiamoci sulle notizie dall'estero. Iraq rallenta l'offensiva verso Mosul dell'esercito iracheno da sud e quella dei miliziani peshmerga curdi da est. I militari di Baghdad sono costretti ad avanzare lentamente villaggio dopo villaggio per bonificare gli abitati da esplosivi lasciati dai jihadisti in ritirata per la presenza poi di cecchini per il pericolo di attacchi suicidi. Il primo ministro iracheno al-Abadi è tornato a chiedere alla Turchia di ritirare le proprie truppe schierate a nord-est di Mosul, affermando che l'Iraq non è assoggettato ad Ankara, ma la Turchia ribatte che l'aviazione turca ha un accordo in linea di principio con la coalizione internazionale per partecipare ai bombardamenti. Insomma, si capisce anche qui chi deve cacciare l'ISIS, chi deve partecipare a questa offensiva definitiva oppure no. Tra poco cercheremo di capire chi siano effettivamente i soggetti in campo e quale sia anche come stia andando questa battaglia contro l'ISIS. Ancora all'estero, è stato catturato il sequestratore che ha preso in ostaggio oggi a Bruxelles una quindicina di persone nel supermercato Carrefour della Schloss d'Asberg nel quartiere di Forest. Lo riferisce la TV RTBF. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un gesto successivo a un furto. L'uomo armato di un coltello non ha fatto rivendicazioni particolari o legate al terrorismo e starebbe ripetendo «non voglio andare in prigione». E adesso parliamo di questa decisione dell'UNESCO che ha ufficialmente adottato questa mattina una risoluzione su Gerusalemme Est voluta dai paesi arabi. Il testo nega il legame millenario degli ebrei con la città vecchia dove sorge il muro del pianto, il luogo più sacro per gli ebrei di tutto il mondo. Il testo in pratica cosa fa? Cancella ogni legame tra gli ebrei e il monte del Tempio, che sarebbe invece per gli arabi la spianata delle moschee. Dura la reazione israeliana, è come dire che la Cina non ha legami con la Grande Muraglia o l'Egitto con le piramidi. E per chiudere abbiamo il nostro Dario Ricci, perché in campo c'è per la Champions League la Juventus. Dario, come è iniziata la partita? Sì Roberto, siamo al 29esimo di gioco allo stadio Gerland di Lione, ancora 0-0 per una buona Juve però che al 24esimo è andata vicino al vantaggio con un bel diagonale di destro di Gonzalo Higuain deviato da Lopez che ha salvato il portiere del Lione, quindi risultato ancora sullo 0-0, un Lione che però in un paio di occasioni è stato pericoloso con i suoi colpitori di testa, attenzione ai saltatori francesi per la difesa bianconera, fortunatamente Buffon finora non ha corso grandi pericoli. 29esimo di gioco in questo istante, ancora 0-0 tra Lione e Juventus. Grazie Dario Ricci, poi con te ci sentiremo più tardi per sapere come procede la partita. Nel frattempo vedo come procedono invece i vostri messaggi, le vostre interazioni, diciamo, qui a Effetto Notte, sia sulla pagina Facebook del programma, sia al numero 349-238-6666 e sono per lo più sull'incontro di oggi tra Renzi e Obama e anche in particolare quello che ha detto Obama a proposito delle riforme del governo Renzi. Per esempio dice Simone, cioè Obama dovrebbe essere per il no alle riforme in Italia e augurarsi che il paese resti bloccato come è da meno 20 anni per le beghe politiche, cioè Simone dice dopo è scontato che Obama sia per il sì. Luciano dice io non vedo vere riforme concrete, l'unica riforma sarebbe quella di eliminare la burocrazia, fare funzionare la giustizia con meno leggi e leggi più chiare. Floriano dice le opposizioni si arrampicano sugli specchi ma è inutile, e poi dice invece un ascoltatore, questo per esempio su WhatsApp, vediamo se lo ritrovo, dice il no al referendum deve essere dato anche per la morbosa ingerenza che stanno facendo le grandi potenze, qual è l'interesse di questi ultimi, il suo entusiasmo per il buffone andato a corte in America è veramente patetico. Orazio da Firenze, si capisce l'entusiasmo di chi sinceramente. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, tra poco cominceremo a scendere nel cuore degli argomenti. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Avete sentito le notizie principali nel racconto, nel riassunto della giornata, come sempre all'inizio, Roberta Giordano con voi. Adesso cominceremo, come di consueto, con Effetto Notte a approfondire alcuni argomenti in particolare. Per interagire qui sul programma, nel programma c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Vedo molti messaggi sulle parole di Obama, del sostegno di Obama alle riforme di Renzi. Dice per esempio Francesco: poi sarebbe la Russia quella che interferisce nelle consultazioni altrui. Luca dice: col sì che cambierà l'Italia, col Senato che sparisce ma rimane, fatto da sindaci, col doppio lavoro che vengono scelti secondo chissà quali requisiti, che come d'incanto prenderanno l'immunità. Poi più in là, già parte delle trasmissioni di Radio 24 stanno facendo l'approfondimento sulle motivazioni del sì e del no, le faremo più in là anche a Effetto Notte. Ilaria scrive: al di là delle polemiche domestiche tra sì e no, ma lo deve decretare il presidente di uno stato estero a fine mandato, cosa è giusto per l'Italia, ma stiamo scherzando, dice Ilaria. Insomma, molti critici nei confronti di Obama e vivono questo sostegno a Renzi, come in particolare sul referendum, come un'ingerenza. Tra poco ci collegheremo con Washington, però intanto vi ricordo quali sono le notizie principali. Se non avete acceso puntualmente, ricordatevi alle 21. Obama nella visita diplomatica di Renzi tifa per il presidente del Consiglio italiano, dice le riforme sono coraggiose, il sì al referendum aiuterà l'Italia. I due leader oggi alla Casa Bianca in sintonia su crescita e migranti. E poi il ministro Padoan dell'economia che risponde alle critiche di Bruxelles, dice la manovra ha le carte in regola, nessun condono e non è uno spot elettorale. E poi questi dati dell'INPS secondo i quali le assunzioni a tempo indeterminato in Italia sono in calo dell'8,5% tra gennaio e agosto 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015. In Iraq, a Mosul, rallenta l'offensiva per riconquistare la città, che è la seconda città dell'Iraq. L'ISIS resiste, c'è tensione del governo di Baghdad con la Turchia. L'UNESCO che adotta definitivamente una risoluzione su Gerusalemme che fa infuriare Israele, perché il testo nega il legame millenario degli ebrei con la città vecchia dove sorge il muro del pianto. E poi sindacati a Roma sul piede di guerra per il salario accessorio. Oggi è stato il primo incontro tra la sindaca Raggi e il governo centrale. E poi per chiudere c'è la partita in corso di Champions League tra Juventus e Lione, Lione-Juventus, che procede, sì, sempre 0-0. Dario Ricci? C'è un gol, ho visto 0-0 adesso, com'è possibile? Invece il risultato non è cambiato, ma c'è stato un momento importante della partita, perché al 36esimo c'è stato il fallo in area di rigore di Bonucci su Diakabi, calcio di rigore per il Lione, sul dischetto Lacazette e quel Buffon che è dato in crisi in queste ultime giornate tra prestazioni in bianconero e in azzurro, ebbene si è disteso alla sua sinistra e ha respinto il tiro dal dischetto dell'attaccante francese. Quindi il risultato ancora tra Lione e Juventus sullo 0-0, ma quando siamo al 37esimo c'è da segnalare proprio il fatto che Gigi Buffon ha respinto un calcio di rigore per i transalpini calciato dalla casetta. Pensa che quella prestazione in bianco e nero che hai detto tu sembrava Luci Oubre, invece era nel senso di maglia della Juventus. La maglia. Ci sentiamo più tardi. Ciao Dario Ricci, ciao. So. To all of you, welcome to the United States. Benvenuti, amici, mia. All right. Diciamo che è stata molto accolorosa l'accoglienza da parte di Barack Obama e della moglie Michelle nei confronti di Matteo Renzi e della moglie Agnese Landini, oggi in visita diplomatica negli Stati Uniti alla Casa Bianca. E diciamo è questo un privilegio riservato, credo, il quarto presidente del Consiglio Renzi a ricevere questo invito allo state dinner, cioè a questa cena di Stato, che è l'ultima tra l'altro per Obama, perché ormai è presidente uscente. recente, sapete che l'8 novembre si voterà per le presidenziali e diciamo che c'è stata molta sintonia tra i due. Vi dicevo, un'apertura di credito ricevuta da Renzi che probabilmente, per quanto ottimista, neanche si aspettava così considerevole, un endorsement come si dice in lingua inglese, cioè proprio un appoggio praticamente totale da parte di Obama sulle riforme, anche sul referendum ha detto il sì aiuterà l'Italia. E poi qualcuno dice, qualche ascoltatore, questo sarà un boomerang nei confronti di Renzi, o qualcun altro invece dice questo potrebbe essere un lascito positivo nei suoi confronti. Ma ne parliamo collegandoci direttamente con Washington, con Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Buonasera a voi, buonasera. Quindi tanti i temi, no? L'alleanza di lunga tradizione tra i due paesi, la lotta all'ISIS in cui è coinvolta anche l'Italia, la crescita economica, le riforme, come dicevo Gerardo. Assolutamente sì, i tre punti sulle quali c'è stato questo endorsement veramente inusuale del presidente uscente sono stati sul referendum, sulla crescita e quindi le riforme economiche in Europa e la crisi dei migranti. Però non è stata soltanto un endorsement al giovane premier italiano. In realtà, che tra l'altro ha definito giovane bello, insomma, a seconda dei gusti, bello, no? Ma in queste parole, in questo lascito, in questa legacy che Obama lascia al suo successore, c'è la preoccupazione del dopo, di quello che sarà l'America senza di lui, dopo di lui, chiunque siederà alla Casa Bianca dopo l'8 novembre. E per questo anche nelle sue parole Obama, oltre a ricordare che la democrazia è fatta di consenso e non di uso della forza, rispondendo un poco a Trump, a tutte quelle preoccupazioni sulle elezioni che potrebbero essere truccate, eccetera, in realtà Obama si preoccupa della sicurezza e della prosperità interna dei suoi concittadini, dell'America. E in questa ottica il rapporto transatlantico è visto da Obama come la chiave di volta per garantirsi benessere e sicurezza. Quindi un'Europa forte, gli Stati Uniti hanno bisogno di un'Europa forte, ma l'Europa dopo la Brexit e in vista di elezioni come quelle tedesche e francesi non è affatto forte. Quindi c'è bisogno di nuovi leader, giovani, forse anche un poco spregiudicati. E Obama riconosce proprio in Matteo Renzi le caratteristiche necessarie a quelli che devono essere i nuovi leader europei. Di qui la necessità, come dire, di sostenerlo in tutte queste battaglie interne, quella dei referendum sulle riforme costituzionali, ma anche le battaglie in Europa, a Bruxelles, per la crescita e gli investimenti contro il partito cosiddetto dell'austerity guidato dalla Angela Merkel, e poi soprattutto la crisi dei migranti. Il fardello non può essere portato tutto sulle spalle dei paesi come l'Italia, la Grecia e la Spagna, secondo Obama, ma deve essere equamente distribuito. Lui ha detto la nostra è una federazione basata sulla solidarietà e sulla responsabilità, quindi diciamo che anche in Europa ogni paese deve contribuire al controllo delle frontiere esterne e quindi anche a una distribuzione dell'onere economico che deriva dal salvataggio delle vite umane nel Mediterraneo. Gerardo, tra l'altro Obama ha detto che gli americani non potrebbero avere un alleato migliore dell'Italia. Lo dice a tutti i paesi alleati, secondo te, a seconda della situazione? Allora, oppure, no? Sicuramente c'è molto di diplomatico in queste parole, però in effetti dedicare l'ultimo state dinner, che quindi non è official dinner ma state dinner, con tutte le eccellenze italiane che sappiamo essere della scienza, della cultura, dello spettacolo, da Armani alla direttrice del CERN di Ginevra, l'Antonelli direttrice del MoMA Design di New York, alla campionessa parolimpica di scherma a tutte queste figure. Beh, questo è sicuramente un fatto importante e inusuale, che dimostra anche la necessità di Obama di lasciare al suo successore questo rapporto forte con l'Italia, ma vista come Europa, cioè come leadership forte in Europa. In questo momento la Francia non ha certamente, pur essendo un paese importante, una leadership forte, la Germania si appresta a delle elezioni che non si sa come finiranno, e quindi diciamo che gli Stati Uniti e la presidenza uscente punta tutto sull'Italia, su questo giovane leader leader, come diciamo la, quello che può cambiare veramente verso l'Europa, e in questo senso rafforzare l'Unione Europea e rafforzare il dialogo transatlantico, magari riuscire anche a portare a casa il TTIP, cioè quindi l'accordo sulla zona di libero scambio di investimenti tra le due sponde dell'Atlantico, e quindi questo anche per garantirsi una sicurezza interna, perché l'Italia è partner fondamentale nella coalizione anti-ISIS in Iraq, sta aiutando l'addestramento delle forze di polizia locali che combattono a Mosul contro l'ISIS, c'è la diga Mosul della Trevi, dell'italiana Trevi, con le forze, con l'esercito, una parte dell'esercito italiano che la difende, e poi la stabilizzazione in Libia, il grande sforzo diplomatico, per ora non solo militare ma per ora diplomatico dell'Italia, di sostenere il governo di unità nazionale di Serraj. Gerardo, solo questo uno dei tanti messaggi che arrivano. Gabriele da Cento dice: non diciamo stupidaggini, il vero onore per i capi di governo o stato esteri è di farli parlare di fronte al congresso, quindi il Parlamento americano, e finora l'onore l'hanno avuto solo De Gasperi, Craxi e Berlusconi. Ma io ricordo quella, credo fosse il 2008, Berlusconi davanti al congresso, sì, dipende anche quando si va a parlare davanti al congresso, andò a parlare di mattina con pochissimi congressmen parlamentari e dovettero, come dire, cercare delle comparse tra i funzionari, gli impiegati del congresso, per cercare di riempire gli scranni del congresso. Beh, non so se è soltanto una foto opportuna o qualcosa di più, ma insomma non è che basta andare al congresso, bisognerebbe anche, quindi, far parte di una di un dibattito vero al congresso, e questo indipendentemente da tutto magari l'Italia non l'ha mai avuto, forse non ce l'avrà mai. Grazie, chiarissimo. Ciao Gerardo Pelosi, ciao da Washington. Ciao. E vogliamo sentire invece Renzi Crozza sulla 7, un momento, vediamo se ci strappa un sorriso. Sì, cosa ha detto? Sì. Lo ridica? Sì. Che bella parola, eh? Vabbè, non c'è, adesso lasci stare. Là. Secondo lei, dopo che uno paga tutta quella mazzata di sanzioni, poi vota sì al referendum? Vabbè, senta. Mi dica, pago le sanzioni e poi voto sì al referendum? Sta parlando il ministro Padoan e anche di Equitalia, evidentemente. Io tolgo le more come atto di amore. Vabbè, ma non faccio... Come diceva quell'altro grande fiorentino prima di me. Chi? Le more che non pagate, amor condona. Senta, lasci stare Dante. Lasci stare Dante, guardi, senta. No, invece adesso. Ciao Pado! Sì, va bene. Senta, adesso vuole anche. Pado. Sì. Senta, adesso vuole anche rispolverare lo scudo fiscale per i capitali all'estero. Sì, certo. Il voluntary disclosure. Esatto. Sembra un programma di Sky, eh? Vabbè, sì. Subito dopo Big Bang Theory. No, ma invece i contribuenti che le tasse le hanno pagate sempre regolarmente. Ah, sì, quelli che pagano le tasse. No, quelli mi odiano. Come la odia? Ormai non li recupero più, sono tutti per il no. Ah. Perché, signori miei, governare significa anche avere il coraggio di fare delle scelte impopolari. Tipo? Stare sul cazzo agli onesti. Va bene, diciamo, su questa battuta ci sentiamo più tardi. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando il programma Effetto Notte, lo sapete, ci sono vostri messaggi dagli Stati Uniti, dall'Australia, dall'Africa, da qualsiasi latitudine. E a proposito di quello di cui abbiamo parlato finora, quindi il collegamento con Washington, con il sostegno forte di Obama a Renzi, al suo governo, alle sue riforme, molti vostri messaggi sono anche critici in questo senso, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. C'è anche un Di Battista, Movimento 5 Stelle, che a Politics questa sera, c'è un'agenzia, dice: da un lato il presidente Obama dice di votare sì, dall'altro lato la ministra della difesa Pinotti ha detto che invieremo i nostri militari in Lettonia ai confini con la Russia. Dice: l'endorsement di Obama al sì fa parte dei favori reciproci tra due uomini che da sempre si scambiano determinati favori. Questa è l'opinione di Alessandro Di Battista. E poi i vostri messaggi ancora sulla pagina Facebook o al numero per WhatsApp ed SMS. Mimmo dice: Renzi è andato dal suo padrone Obama a prendere ordini con l'altro buffone di corte Benigni. Tommaso scrive: Obama è un buon presidente che fa gli interessi del suo paese, perché la nostra riforma costituzionale dovrebbe essere una buona cosa per gli Stati Uniti? Trovo singolare, scrive Obama, che il nostro governo sia uno dei pochi che si sia espresso a favore del TTIP, abbia confermato un'ingente spesa militare a favore dell'industria americana e nessuno si pone il problema se questi siano o meno interessi italiani. Quindi vedete liberamente le vostre prese di posizione, ma tra poco parleremo di un altro argomento che in qualche modo però è legato anche a un'alleanza forte tra Stati Uniti e Italia. Intanto però vi ricordo, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, le notizie più importanti. La visita di Renzi alla Casa Bianca, il Presidente del Consiglio incassa il sostegno di Obama sulle riforme, il sì al referendum, dice Obama può aiutare l'Italia. La manovra italiana sotto la lente di Bruxelles, il ministro Padoan risponde alle critiche, dice che l'Italia è in regola, la manovra non è uno spot elettorale, fa bene alla crescita del paese. Lavoro in calo dell'8,5% tra gennaio e agosto 2016, le assunzioni a tempo indeterminato rispetto allo stesso periodo 2015, l'osservatorio INPS sottolinea che sul dato pesa la fine del superbonus. Roma oggi in primo incontro sui conti tra la sindaca Raggi e il governo, sindacati pronti allo sciopero per i salari. Iraq rallenta l'offensiva per riconquistare Mosul, ne parleremo a breve, poi caporalato, via libera definitivo della Camera al disegno di legge sul contrasto ai fenomeni del lavoro nero e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. La decisione dell'UNESCO su Gerusalemme è indivisibile e patrimonio palestinese, durissime le proteste di Israele. Per il calcio, la partita di Champions League per la Juventus che è in campo contro il Lione, vediamo se c'è un aggiornamento. Siamo sempre 0-0. Quindi parliamo della battaglia iniziata da circa due giorni in Iraq per liberare Mosul dall'ISIS. Mosul è la roccaforte appunto in Iraq del sedicente Stato Islamico ed è la seconda città per grandezza dell'Iraq. L'offensiva è stata lanciata da una coalizione piuttosto composita, c'è naturalmente l'esercito iracheno, le forze curde irachene, le milizie sciite, poi ci sono le forze speciali americane con la coalizione internazionale e occidentale, c'è anche però la Turchia e c'è il segretario generale della Lega Araba che ha confermato il pieno appoggio al governo iracheno e al suo popolo in questa offensiva per liberare Mosul. Insomma, per riuscire però meglio a capire chi sono i soggetti in campo, qual è la posta in gioco, quali possono essere i tempi nei quali davvero Mosul possa essere liberata dall'ISIS, coinvolgo Andrea Plebani, che è ricercatore dell'ISP, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Plebani, buonasera. Buonasera. Quindi la situazione è piuttosto caotica, inevitabilmente. C'è anche questo ruolo controverso della Turchia. Che cosa sta succedendo? E davvero è il momento buono, l'offensiva decisiva, come si sta dicendo in questi giorni, o ci vorrà molto tempo? Sì, la situazione è molto complessa e non lo è in realtà da ora, sono certo anni ormai che assistiamo alla contrapposizione di interessi molto differenti, sia da parte di forze interne al paese iracheno, sia da parte di attori esterni, gli attori regionali come l'Iran in primo luogo e la Turchia, ma anche attori internazionali o extraregionali come gli stessi Stati Uniti. Sono queste dinamiche, agende contrapposte, che sono uscite allo scoperto proprio all'avvio dell'operazione su Mosul, perché Mosul è importante simbolicamente, il paese, e la presa di Mosul coincide con la nomina del sedicente califfato nel 2014, è importante come centro urbano, come ricordato, il secondo più rilevante dal punto di vista demografico dell'Iraq, con stime preoccupazioni di IS che andavano da 1,5-2 milioni di abitanti, è importante per la sua posizione vicino alla Siria, vicino alla Turchia, è importante perché rappresenta in un certo senso l'epicentro della comunità arabo-sunnita in Iraq, ha sempre avuto questo ruolo molto rilevante e quindi questi sono tutta una serie di fattori che riemergono prepotentemente nel momento in cui si pongono le condizioni per una liberazione della città. Plebani, comunque a complicare la situazione, per chi non lo sapesse, nel senso che come dice lei è complicata da parecchio tempo purtroppo in Iraq, dalle famigerate e fantomatiche armi di distruzione di massa di Saddam, no? Però adesso c'è anche il rischio, anche denunciato da Amnesty International per esempio, che ci siano dei soprusi, degli abusi terribili contro i sunniti da parte degli sciiti, quindi da stessi iracheni contro altri iracheni, perpetuando gli odi interconfessionali, interetnici, no? Sì, in realtà mi permetto, faccio un passo indietro, che però è fondamentale per capire la situazione attuale. Il sedicente Stato Islamico non nasce da nulla, nasce principalmente da una crisi eminentemente politica dovuta alle politiche errate, estremamente settarie e discriminatorie dell'ex primo ministro iracheno, Nouri al-Maliki, uno sciita che si ammantava di questo essere un po' la guida dell'intero paese, la figura unificante. In realtà con la fuoriuscita delle forze americane nel 2011 assistiamo a una presa di posizione molto dura della comunità arabo-sunnita, a una frattura che si viene a creare tra Baghdad e i soggetti arabo-sunniti del centro e del nord-ovest del paese. In questa frattura si inserisce appunto il sedicente Stato Islamico, che riesce a presentarsi come un nemico del governo centrale. La logica è quella solita a cui siamo abituati, il nemico del mio nemico magari non è mio amico ma è un mio collaboratore o posso sfruttarlo. In questo contesto sostanzialmente cosa succede? Che la guerra interna al paese, questa guerra civile, si presenta anche secondo questa duplice ottica, una componente arabo-sunnita versus una componente arabo-sciita. Purtroppo questi timori non vengono dal nulla, vengono dal fatto che la liberazione di Ramadi, altra città chiave dell'Iraq, avvenuta a cavallo tra l'anno scorso, è stata seguita da una serie di soprusi pesantissimi contro la popolazione locale, che sono stati perpetrati da una serie di milizie sciite formalmente sotto il controllo del governo iracheno, ma di fatto fortemente autonome e legate a doppio filo con l'Iran. Vede quindi che si vanno a unire diversi tasselli, il piano internazionale, il piano locale, il piano regionale, vanno a coincidere purtroppo in questa fase. La Russia ha parlato oggi di un possibile disastro umanitario su vasta scala, poi Obama, che oggi appunto in conferenza stampa con Renzi ha detto anche l'Italia ci dà un fortissimo sostegno contro l'ISIS, ha detto che stanno già prontando un piano per un eventuale appunto disastro umanitario. È fondato il rischio, Plebani? Il rischio purtroppo è più che fondato perché comunque la città è ancora fortemente abitata. Nelle operazioni di liberazione precedenti da parte delle forze di sicurezza irachene si è assistito di solito a un accerchiamento delle città selezionate e progressivamente a un assedio protrattosi per settimane, in diversi casi per mesi. Potete immaginare le conseguenze che questo possa avere su una città grande come Mosul. Oltretutto, dalle analisi che ci giungono dal territorio, pare che i guerriglieri di Abu Bakr al-Baghdadi siano disposti o faranno ricorso a veri e propri scudi umani e si siano tra l'altro mischiati assieme alla popolazione locale. Cosa farà l'IS è difficile da dirsi, nessuno può saperlo, anche perché la battaglia, la sconfitta di IS a Mosul non segnerebbe necessariamente il collasso del sedicente califfato, grazie anche alla presenza di altre forze adesso vicine in Siria, ma Mosul è un simbolo importantissimo. Qualora si andasse a combattere casa per casa, e allora la tragedia umanitaria sarebbe più che verosimile. E nonostante tutti i preparativi fatti, dubito che si sia in grado in questo momento di assorbirla. Come si deve, non parliamo di decine di migliaia di persone, parliamo di centinaia di migliaia di persone che potrebbero abbandonare la città. Quindi delle prospettive veramente pazzesche. Grazie Andrea Plebani dell'ISPI, grazie. Un piacere. Quindi questo scenario funesto che purtroppo sembra particolarmente fondato, tanto per non farsi mancare nulla in questi scenari di guerra internazionali. Adesso però ci prendiamo una pausa per aggiornare chi sta viaggiando e poi altri temi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo tra poco, in pochi secondi. Qualcuno dice: Luca, sì, ma Obama lo sa che Renzi non è stato eletto dal popolo. Però di là di questo, il Presidente del Consiglio non viene eletto dal popolo, ma nominato dal Presidente della Repubblica. Diciamo, qui la questione è un po' più complessa. C'è stato anche il governo Letta deciso dall'alto, ma succede quando ci sono questi passaggi, no? Veloci, per un qualche motivo, per un motivo o per l'altro, non è certamente il primo governo che è lì senza che si passi attraverso le elezioni, questo al di là che sia pro o contro Renzi. Adesso vi ricordo, vi dicevo, le notizie più importanti e poi c'è lo spazio europeo. Obama nella visita diplomatica di Renzi tifa per le sue riforme, dice riforme coraggiose, il sì aiuterà l'Italia, i due leader alla Casa Bianca sono in sintonia su crescita e migranti. E poi il ministro Padoan, ministro dell'economia, che risponde alle critiche, in particolare di Bruxelles, dice la manovra economica ha le carte in regola, nessun condono, non è uno spot elettorale. E poi per quanto riguarda i dati INPS sul lavoro, assunzioni in calo dell'8,5% le assunzioni a tempo indeterminato, questo tra gennaio e agosto 2016 rispetto all'anno precedente. precedente. Rallenta l'offensiva per riconquistare Mosul in Iraq contro l'ISIS, che resiste, tensione con la Turchia da parte del governo di Baghdad, ne abbiamo appena parlato, della situazione terribile e del rischio anche di un disastro umanitario. E poi c'è l'UNESCO che adotta definitivamente la risoluzione su Gerusalemme Est che suscita l'ira di Israele, praticamente un documento che praticamente nega il legame millenario degli ebrei con la città vecchia dove sorge il muro del pianto. E poi c'è la Juventus sempre in campo contro il Lione e procede sempre la partita 0-0. Europa 24 notte. Per lo spazio europeo parliamo della Commissione europea che sta esaminando la proposta del Partito Popolare di regalare un pass Interrail a tutti i nuovi diciottenni europei, come si faceva qualche anno fa. Allo studio anche una vera e propria carta dello studente. La proposta arriva dal Partito Popolare, regalare un pass Interrail a tutti i nuovi diciottenni europei, un'eccellente idea di cui valuteremo costi, fonti di finanziamento e fattibilità, ha fatto sapere la Commissione, ma deve essere accessibile a tutti. In tal senso arriva la European Student e-Card rilanciata da Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura al Parlamento Europeo. Uno studente europeo dopo 18 anni, quindi permanentemente, non soltanto per un mese, possa essere titolare di una carta sulla quale, tra l'altro, essendo una carta elettronica, si può anche caricare tutto il curriculum, che significa titolarità di una carta che ti dà la dignità di essere riconosciuto come status di studente europeo in mobilità, non solo ai ragazzi Erasmus, che poi con opportuni accordi della Commissione con tantissime reti europee, che possono essere anche l'Interrail, ma non solo l'Interrail, penso agli ostelli europei della gioventù, alle reti dei servizi culturali, teatri, cinema, corsi di formazione, sviluppo una tale massa critica che possono consentire ai ragazzi delle agevolazioni molto sostanziose in sotto vari aspetti, non solo per viaggiare, quanto per restare, per fare un'esperienza educativa, formativa in Europa. E c'è già un progetto pilota di cui fa parte l'Italia, favorevole al pass Interrail Ferrovie dello Stato, anche se integrarlo maggiormente in questa fase potrebbe complicare l'iter, ci spiega l'amministratore delegato Renato Mazzoncini. Integrarci con i musei, integrarci con altre esperienze potrebbe essere una buona idea, ma se questo poi complica il progetto al punto che non si faccia, io starei sul nostro buon vecchio Interrail e l'idea di renderlo gratuito per i diciottenni mi sembra una grande idea. Unico dubbio che ho è, rispetto al progetto attuale, è se la strada giusta sia di spedirlo a tutti i maggiorenni o non invece il fatto che siano loro ad attivarsi per averlo. Ciò permetterebbe anche di stimare meglio i costi. Al momento sono circa 300.000 l'anno i cittadini europei che viaggiano con Interrail e non sono ovviamente tutti diciottenni. L'ipotesi di costi che stanno viaggiando, un miliardo e mezzo, sono basate su una previsione assolutamente inesistente, cioè del fatto che poi tutti questi 6 milioni di ragazzi effettivamente viaggino. A consuntivo, oggi l'Interrail purtroppo ha numeri molto più piccoli. Se oggi dovessimo rendere gratuito per i diciottenni l'attuale Interrail, i costi che sosterrebbero, diciamo, i nostri regolatori, la Comunità Europea, le imprese di trasporto, sono davvero piccoli. È chiaro che nel momento in cui fossero spediti a casa tutti, moltiplicando i 6 milioni di giovani per i circa 500 euro che costa l'Interrail, viene fuori una bella cifra, ma è anche estremamente probabile che una buona parte di questa cifra non venga mai realmente utilizzata, nel senso che la gente che la riceve in molti casi non la utilizzerà. In più, se ci limitiamo al pass, spiega la Didi Ferrovie, l'iniziativa potrebbe partire già la prossima estate. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora vediamo un po' cosa succede a Lione con la Juventus in campo per la Champions League. Mi pare, Dario Ricci, che qui non si muova una foglia. Sì, in realtà il punteggio non si schioda, ma sempre grande protagonista Gigi Buffon. Ricapitolando, 53esimo di gioco, ancora 0-0 tra Lione e Juventus, ma pochi istanti fa, pochi minuti fa, al 50esimo, quel Buffon che, come ricorderai Roberta, al 36esimo del primo tempo aveva già respinto un calcio di rigore. Caspita, di Lacazette. Ricordo benissimo, certo. È stato protagonista ancora una volta perché il contropiede del Lione innescato dall'errore di Dani Alves porta al tiro Fekir che si gira di destro, ebbene Buffon con la mano di richiamo riesce a compiere veramente un miracolo e a salvare in calcio d'angolo, e per fortuna che lo davano in crisi. 53esimo di gioco però, Lione e Juventus ancora sullo 0-0, mentre il Siviglia, sempre nel gruppo H, è in vantaggio sul campo della Dinamo Zagabria. Dario, è decisiva questa partita? Cosa succede a seconda del risultato? Intanto in questo momento viene espulso il bianconero Lemina, quindi Juventus che dovrà affrontare buona parte del secondo tempo in 10 per fallo, perché era occasione, sì, perché c'era il giocatore del Lione lanciato in contropiede, Lemina è intervenuto, proprio Fekir lo ha falciato e l'arbitro ha deciso l'espulsione, quindi Juventus in 10. Beh, è partita che diventa ancora più importante perché Lione, Siviglia e Juventus si giocano i due posti per gli ottavi di finale e una inevitabilmente non ce la farà, Roberta. Chiaro. Grazie Dario Ricci. Ciao Dario. Grazie a te. Noi ci riaggiorniamo brevemente come sempre alle 22.